24 mattino. Anche questa mattina, il primo, 18 minuti dopo le 7, un saluto da Irene Zerbini, tra pochissimo la rassegna stampa. Salutiamo innanzitutto chi lavora anche il 30 dicembre, comincio da chi ho di fronte, Peter Pescapè, grazie a tutti coloro che dietro le trasmissioni di Radio 24, perché poi voi sentite le nostre voci, ma in realtà c'è un gruppo molto operoso, molto operativo, sempre, che si alza al mattino e non solo, e fino a tarda notte ci permette d'andare in onda. Una giornata manca alla fine di quest'anno 2014, in cui si sono raccolti gli sforzi collettivi e in cui è giusto ringraziare a vicenda. A proposito di sforzi collettivi, alcuni dati che riguardano la nazione, visto che la crisi senza dubbio non ci aiuta a essere ottimisti, noi oggi ci soffermeremo sui dati dell'export. Attenzione, perché è quello che traina, diciamo così, l'Italia, soprattutto l'export fuori dal vecchio continente, soprattutto in India e in Spagna. E questo è un elemento, poi ci soffermeremo sui dati nel corso della trasmissione, per chiedersi, ma gli italiani ormai viaggiano sempre di più, lavorano all'estero, oppure dall'Italia cercano di consolidare il proprio rapporto con l'estero, anche dal punto di vista professionale. E cosa succede? Come si affronta un colloquio di lavoro con dei giapponesi o una riunione d'affari? Gli affari, per esempio, con i cinesi, come si fanno? Ci sono delle questioni culturali che possono impedire il buon esito di una trattativa? A voi è mai capitato? Cosa avete notato delle altre culture che può avervi creato o un imbarazzo, un sorriso, una scoperta? Di questo discuteremo e siete invitati tutti a partecipare all'800 24 00 24 o con gli sms al 349 238 6666. Ma tutto ciò dalle 8:15. Prima saluto Giulia Crivelli, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Irene. Puoi darci il tuo contributo? Tu parli 5 lingue, sei una persona che racchiude il, non solo il multilinguismo, ma il multiculturalismo dentro di sé. Qual è la differenza che hai notato maggiormente nei tuoi incontri con l'estero e con chi, verso chi? Bah, sicuramente in una parola, meritocrazia. Quello che io, di cui ho fatto esperienza da straniera, quindi comunque da minoranza, da persona che ha delle differenze molto difficili da superare culturalmente, sia in Germania e soprattutto negli Stati Uniti, dove ho vissuto a lungo, è questo: che alla fine tu metti sul piatto quello che sei, quello che sai fare, e vieni giudicato per quello. E questa è una bellissima sensazione che purtroppo in Italia spesso non si ha. Grazie Giulia, ti lascio alla rassegna stampa, ci sentiamo dopo. A dopo. E appunto parlerete, molto interessante l'argomento scelto da Irene, questa idea comunque di confrontarsi, di cercare di capire le differenze tra il proprio mondo e quello che c'è fuori dai confini dell'Italia, è sempre, credo, salutare, un esercizio interessante, anche se magari poi non si deve necessariamente andare a lavorare o studiare all'estero, ma è proprio l'idea di essere cittadini del mondo. Ma cominciamo quindi dal Corriere della Sera, perché come potete immaginare tutti i giornali oggi continuano a concentrarsi sulla tragedia del traghetto. Per ora la cifra l'avete sentita naturalmente nei GR, si parla di 10 morti, però ci sono anche 30-40 dispersi, e quindi sicuramente il bilancio andrà aggiornato. Quindi il Corriere della Sera, traghetto, il mistero dei dispersi. La foto è quella pubblicata anche da molti altri giornali, di un signore con una coperta indosso che viene fatto scendere dalla nave, è indicativa appunto di come sono stati difficili e lunghi i soccorsi. Il commento principale di Aldo Cazzullo, l'onore di un'altra Italia. Poi dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche però l'intervista al Corriere, appunto, del ministro dell'economia Padoan, che il Corriere poi sintetizza in "ecco le 5 misure per rilanciare la crescita", e dopo magari ne leggeremo una parte. La Repubblica, diciamo, ha la sua prima pagina divisa in due: da una parte la notizia del traghetto, il giallo dei clandestini, 10 morti e 30 dispersi, una foto un po' diversa questa volta di un soccorritore che fa scendere un bambino, e poi invece l'altra metà della pagina è dedicata alla Grecia. Sapete che ieri c'è stato l'ultimo voto utile l'ultimo tentativo utile per eleggere un presidente, il tentativo è andato fallito, e quindi adesso si va a elezioni anticipate, che spaventano molto, perché potrebbe esserci una grande vittoria del partito Syriza, quello guidato da Alexis Tsipras, che è un partito decisamente anti-euro. La Grecia va al voto, incubo euro. Ieri, come avete sentito anche nei GR, c'è stato poi il crollo della borsa greca e quella di Milano, che poi si sono leggermente riprese alla fine giornata, e però insomma l'effetto di questa decisione, questo inevitabile esito del voto mancato del presidente, quindi l'esito inevitabile di elezioni anticipate, l'effetto c'è stato. Sulla conferenza di Renzi si esercitano i migliori commentatori di tutti i giornali. Sul Corriere della Sera c'è il commento di Pierluigi Battista, su Repubblica quello di Francesco Merlo, di cui magari dopo leggeremo una parte. Al gran ballo della Tarantola si intitola. Ma veniamo al Sole 24 Ore, che invece ha il titolo principale dedicato alla Grecia e al suo voto anticipato, con la conseguente salita della tensione sui mercati. Ieri appunto Atene poi alla fine ha perso il 3,9%, che è tanto in un giorno solo, e anche Milano e la Borsa di Madrid hanno chiuso in rosso. Poi c'è una foto notizia, la stessa, più o meno la stessa, utilizzata dal Corriere della Sera, quindi questa persona anziana che viene fatta scendere coperta da una coperta di fortuna insieme ai soccorritori. Il commento di Paolo Bricco, il comandante che resta al suo posto, perché ha fatto molto effetto, perché purtroppo tutti ci ricordiamo del comandante Schettino, ha fatto molto effetto questo comandante che, facendo il suo dovere, è rimasto a bordo fino a che l'ultima persona, aiutata dai soccorritori, ha lasciato la nave. Sul Sole 24 Ore naturalmente moltissimi commenti, quello sull'agenda del governo, la conferenza stampa di fine anno del Premier affidato a Guido Tabellini, meno tasse e più credito per tornare a crescere, per quanto riguarda queste sono le priorità del governo secondo appunto Guido Tabellini. E invece per quanto riguarda l'economia più in generale, il commento, l'editoriale di Fabrizio Forché, uno dei vice direttori del Sole 24 Ore: Europa e Italia, i sei mesi in cui ci giochiamo quasi tutto, perché in effetti sta per finire il semestre di presidenza dell'Unione Europea, ma sono quelli che vengono, sono sei mesi decisivi per alcune decisioni che riguardano l'economia del nostro paese, ma anche tutte le norme europee che si sta cercando di ammorbidire per facilitare la ripresa in alcuni paesi, in primis l'Italia. La Stampa, anche in questo caso la foto è la stessa del Corriere del Sole 24 Ore, il titolo: sono 10 morti del traghetto, i dispersi diventano un giallo, perché appunto non si capisce bene se ci fossero dei clandestini, quanti fossero, perché dai registri di Atene, i responsabili di Atene delle attività portuali dicono che mancano 38 passeggeri all'appello. È una specie di appunto di giallo che si scioglierà probabilmente nei prossimi giorni. Anche come la Repubblica, la Stampa ha diviso un po' la sua prima pagina in due, quindi da una parte il traghetto, dall'altra la questione della Grecia. La Grecia è in crisi, va al voto anticipato e spaventa l'Europa. Sono infatti a rischio i crediti di 17 stati se vince il fronte dei no euro. Perché siamo in 17, c'è anche l'Italia, a essere creditori della Grecia e del suo gigantesco debito pubblico e di quel salvataggio che è stato fatto dall'Unione Europea, dal Fondo Monetario Internazionale, appunto dell'economia greca. Ma vi dicevo sulla figura di questo capitano che non ha lasciato la nave, a lui è dedicato il buongiorno di Massimo Gramellini, che vi leggo, intitolato Capitano Ultimo. Scrivo queste righe per tacitare la parte di me stesso che considera il comandante del traghetto in fiamme, Argilio Giacomazzi, un eroe. Nel leggere le parole che egli ha pronunciato al culmine della tragedia, non sto molto bene, ma sarò l'ultimo a mettere i piedi fuori di qui, ci siamo commossi un po' tutti, e la commozione ha ceduto il passo all'ammirazione quando, facendo eseguire i gesti alle parole, il comandante ha abbandonato la nave soltanto dopo aver coordinato i soccorsi. Eppure non ha fatto nulla di straordinario, come nulla di straordinario fanno i funzionari pubblici che rifiutano una mazzetta e in genere le tantissime persone che compiono ogni giorno il proprio dovere senza lasciarsi peggiorare dall'abitudine e dalla paura. L'aver trasformato la normalità in comportamento eroico è il frutto di una società dello spettacolo che si nutre di cattivi esempi, e se talvolta ne sbandiera di buoni non è per slancio etico, ma per la necessità di variare la trama. Depurata dall'enfasi retorica, la condotta coerente di Giacomazzi nell'emergenza è un inno al lavoro ben fatto. Chi ha una responsabilità non scappa, non si tratta di una scelta epica, ma di una prassi umana che l'esistenza di tanti capitan Tremarella, non soltanto a bordo della Concordia, ha ammantato di una vena simbolica sproporzionata alle circostanze. Gli eroi sono coloro che fanno qualcosa che non sarebbero tenuti a fare, mentre il comandante che comanda fa esattamente ciò per cui è stato scelto. Non è dunque un eroe, ma qualcuno di più socialmente utile, perché più facilmente imitabile, un uomo. La prima pagina del Messaggero, il titolo a tutta pagina dedicata al traghetto, è strage giallo sui passeggeri. La foto è sempre quella, anche se con un focus più stretto. Quindi, in questo caso, anziché quattro soccorritori, se ne vedono solo due, più appunto questo ferito che lascia la nave. E, naturalmente c'è però anche la notizia, tra l'altro con un articolo di Oscar Giannino, dedicata alla Grecia. La Grecia va alle elezioni anticipate, la sinistra anti-UE spaventa le borse, quindi la notizia è un po' sempre quella, che questo spettro di una vittoria del partito anti-UE ha spaventato appunto le borse. E c'è naturalmente anche la notizia di Renzi, della conferenza stampa di fine anno di ieri, con questo annuncio: interverrò sugli statali, i fannulloni andranno a casa. Sapete, ne abbiamo parlato negli ultimi 3 giorni, il Jobs Act, il decreto, la riforma del lavoro. La nuova riforma del lavoro, con questa idea di escludere gli statali dal licenziamento per giusta causa, e con tutte le polemiche che ne sono seguite, le accuse al Premier di aver fatto una scelta di compromesso molto sbagliata. Ieri abbiamo letto un editoriale del giornale con questa idea del Premier che sta quasi per fare il rigore, ma alla fine non tira il rigore, dove il rigore sarebbe stato appunto estendere la norma sul licenziamento per giusta causa agli statali. E ieri Renzi ha rassicurato: no, vedrete, arriverà anche quello. Ultima copertina che vi segnalo prima di una piccola pausa: l'Avvenire torna al fuoco greco. In questo caso questa metafora è di nuovo appunto quella della paura scatenata nelle borse dell'Unione Europea dalle elezioni anticipate greche. E poi il riferimento a Renzi: 2015 a tutto ritmo o siamo spacciati. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Dopo l'Avvenire, passiamo a Il Giornale, che in questo caso apre sul traghetto, ma con un risvolto polemico sulla questione appunto di quante sono le vittime e quanti sono i dispersi. Il titolo è: Il governo non sa contare i morti. Il riferimento è alla conferenza stampa di Renzi, di cui parlavamo, dove naturalmente il Premier ha parlato anche dei soccorsi, ha cercato di aggiornare su quello che stava succedendo, e in diretta ha detto che le vittime erano 5. In realtà poi sappiamo che almeno sono 10, e questo il giornale gli contesta. C'è anche la fotonotizia, in realtà, diciamo così, è un facsimile di una foto di una tessera di iscrizione del PD. Sapete che c'è il commissario del PD romano, Matteo Orfini, sta cercando di far luce sui tesseramenti falsi dello stesso PD, e in particolare di quello romano. E il Andrea Cuomo ci racconta che addirittura a Roma sarebbe stato iscritto il Duce, cioè perché pare che sia così facile iscriversi con nomi falsi. E qui appunto c'è il facsimile di questa tessera intestata a Benito Mussolini, del circolo di Predappio e struttura territoriale di Forlì. Il titolo del pezzo di Andrea Cuomo: abbiamo iscritto il Duce al PD, firmato Renzi. Perché naturalmente, come in tutte le tessere del PD, c'è la fotocopia, diciamo, della firma del segretario. La prima pagina di Libero, anche in questo caso, ha tutta pagina sul traghetto: i codardi della nave della morte. E infatti pare, da molte testimonianze raccolte, che non si sia rispettato il codice non scritto che dice: prima salvare i bambini, le donne, le persone anziane, i feriti. Pare che ci siano stati veramente episodi in cui anche molti uomini cercavano di trovare posto a bordo delle scialuppe o di queste ceste che venivano calate dagli elicotteri a scapito di appunto donne e bambini. La fotonotizia è dedicata a Giovanni Malagò, presidente del CONI dal 2013, perché Giacomo Amadori racconta come in molte redazioni sia arrivato questo dossier in cui si spiega che Malagò ha una falsa laurea in economia e commercio della Sapienza. La laurea falsa del Signore dello Sport Italiano E poi Giacomo Amadori appunto ci racconta questa storia che è fatta un po' di carte bollate, accuse e controaccuse da parte di Giovanni Malagò e dei suoi appunto accusatori. Ma comunque la vicenda è stata in effetti aperta un'inchiesta, ma poi tutta la vicenda è stata prescritta. Quindi come sempre, insomma, quando c'è di mezzo la prescrizione è poi difficile ricostruire veramente quali fossero i reati e se sono se semplicemente uno non incorre in sanzioni perché è intervenuta la prescrizione, oppure non incorre in sanzioni perché comunque era innocente. Vi segnalo però la rubrica di Filippo Facci, che si chiama Appunto. Oggi è intitolata Circo Minimo ed è dedicata alla vicenda dell'ippopotamo fuggito dal circo e poi investito da un automobilista. Provo a immaginare la faccia dell'automobilista che sulla provinciale 361 di Macerata sabato sera ha investito un ippopotamo. Poi è scappato l'automobilista mentre l'ippopotamo è morto. Mi ha ricordato la giraffa che 2 anni fa galoppava per le strade di Imola, morta anch'essa dopo la fuga dal circo. Non mi interessa se i bestioni siano fuggiti da soli o siano stati liberati da animalisti imbecilli. Mi chiedo se occorra per forza essere animalisti o imbecilli per auspicare che anche in Italia certi animali vengano progressivamente banditi dai circhi, come nei paesi più civili. In tema di ripopolamento abbiamo fatto passi da gigante. A non rischiare più l'estinzione sono anche cervi, lupi, orsi, aquile, persino tartarughe e tonni rossi. Però consentiamo ancora quel tristo spettacolo di bestie teoricamente selvagge e in pratica ciondolanti, penose, depresse, snaturate, frustrate e pungolate con l'elettricità. Qualcosa che neppure il più ritardato dei bambini può credere corrisponda all'immagine che di un animale si era fatto. Chiaro poi che si buttano su Peppa Pig. L'idea quindi è semplice: proibirli e arrivederci gli animali, anche perché, come pochi sanno, in Italia i circhi sono ancora sovvenzionati dallo Stato. Tutti, anche quelli condannati per maltrattamento agli animali, come i circhi Folloni, Lidia Togni, Franchetti, Bellucci e Martini. Sono pochi milioni di euro, ma risparmieremmo soldi noi e sofferenze gli animali. Non farlo è da bestie. La prima pagina del manifesto, dedicata alla crisi greca, c'è una foto di Alexis Tsipras, che sapete appunto è il leader di questa formazione di sinistra Siriza, che esce un po' vincitrice dalla mancata elezione di un presidente, quindi dalla decisione di andare a elezioni anticipate. Il titolo è Tempo debito. L'Europa dell'austerity e i mercati tremano, la Grecia ha scelto la democrazia per rinegoziare il debito. È un titolo naturalmente molto forte, un sommario anche molto polemico. L'idea è quella che le misure di austerity imposte alla Grecia non siano, appunto, secondo il manifesto, non siano state democratiche, che invece la via democratica per risolvere una crisi sia quella di andare ad elezioni, cosa che adesso succederà. La formazione di sinistra Siriza fa fallire la manovra antidemocratica del premier Samaras. Sfumata nera per l'elezione del Presidente della Repubblica, i greci andranno al voto anticipato il 25 gennaio. Il favorito, come dicevamo, appunto, è Alexis Tsipras. Il Fatto Quotidiano dedica la copertina alla tragedia del traghetto: troppi dispersi, troppi ritardi. C'è naturalmente, come sapete, come sempre accade in questi casi, ci sono polemiche sui soccorsi, anche se in realtà quello che abbiamo visto è sicuramente di condizioni meteorologiche estreme, onde altissime, e comunque i soccorsi sembra abbiano funzionato. I dispersi sono naturalmente una tragedia nella tragedia, però vedremo poi quale sarà il bilancio finale. Vi segnalo la prima pagina, la copertina del Foglio, che è un giornale, come sapete, proprio quasi solo di commenti. Quello che mi ha incuriosito di più è il commento dedicato a Amazon il gigante, una volta dicevamo la libreria più grande del mondo, in realtà adesso viene chiamato in America di Everything Store, cioè il negozio online dove puoi trovare qualsiasi cosa, dalle tortiere alle scarpe, ai libri, alle videocassette. L'analisi di Mattia Ferraresi si intitola Amazon amara, un anno di perdite e cambi di percezione raffredda gli entusiasmi da shopping natalizio di Bezos, Jeff Bezos, il fondatore. Vi leggo l'ultima parte che ha un titoletto che è L'impero del male digitale. Non è soltanto una questione di numeri, ma anche di percezione. Come molte altre aziende tecnologiche, Amazon cammina, anzi corre, sul crinale fra la rivoluzione disruptive e il terrore digitale. Dove un tempo c'era un'allegra compagnia che rottamava inefficienti e polverosi modelli di business, oggi c'è una grigia corporation che detta le condizioni del mercato, piega i competitor, fagocita pesci piccoli, distrugge con tecniche di logoramento chi non cede alla sua logica e offre condizioni discutibili ai dipendenti. The Everything Store, il libro inchiesta di Brad Stone uscito giusto un anno fa, ha contribuito alla diffusione dell'idea che sotto la facciata scintillante c'è qualcosa di marcio nell'impero di Amazon. Proprio nel periodo natalizio i dipendenti tedeschi dell'azienda hanno scioperato per chiedere salari più alti. Davanti ai magazzini sono comparsi cartelli che invitavano il CEO, Jeff Bezos, a non investire in droni ma in persone, e altri slogan che descrivono la dinamica di una grande azienda tecnologica che entra nel territorio sindacalizzato della vecchia Europa e ad accoglierlo trova barricate salariali e invocazioni di diritti. Un regalo di Natale che Bezos si sarebbe risparmiato volentieri, assieme ai risultati non proprio magnifici del 2014, annata di perdite nonostante gli entusiasmi dello shopping natalizio. Veniamo infine alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che è dedicata anche oggi al calciomercato. Lavezzi si tratta, e il riferimento a Ezequiel Lavezzi, il giocatore di 29 anni che in Italia ha già giocato con il Napoli, e oggi a Marrakesh ci sarebbe un pranzo tra l'Inter e il Paris Saint-Germain per magari definire appunto l'arrivo di Lavezzi in Italia. Appuntamento fissato tra Fassone e Blanchi, responsabili delle due squadre. Il piatto è il pot, come abbiamo ricordato ieri, che non è stato convocato per il ritiro in Marocco. La pista Podolski si complica ma resta aperta e spunta l'ipotesi Salah. Insomma, grandi movimenti sul calciomercato. Ma passiamo alle pagine interne. Dicevamo sul Corriere della Sera l'intervista a Piercarlo Padoan. E vi leggo le prime due domande. Ministro Padoan, il governo continua a essere ottimista sulla ripresa dell'economia, lo ha ribadito anche il Premier nella conferenza stampa di fine anno, ma su quali elementi vi basate, visto che l'Istat ha appena segnalato un nuovo calo della fiducia dei consumatori, chiede Enrico Marro. Confermo l'ottimismo del presidente Renzi. Innanzitutto, a livello globale, la situazione sta migliorando. L'euro continua a svalutarsi sul dollaro, il prezzo del petrolio si sta stabilizzando su livelli molto bassi, fatto notevole per un paese importatore come l'Italia. Più in generale, i dati delle ultime settimane dicono che il rallentamento dell'economia italiana è finito. Inoltre, le misure già messe in campo dal governo e le altre che verranno prese daranno i loro frutti nel 2015. Ma allora perché i consumatori non sono ottimisti? La fiducia delle imprese e delle famiglie non migliora complessivamente, è vero, ma alcuni componenti sì. Mi aspetto anche qui un'inversione della tendenza. Dopo 3 anni di recessione, una perdita di 10 punti di prodotto interno lordo e di 1 milione di posti di lavoro, l'occupazione ha ripreso a salire. Ciò avrà influenza sul ritorno della fiducia. È un po' un ottimismo della ragione, sembrerebbe quello di Padoan, e naturalmente speriamo assolutamente di potergli dare ragione, sia dal punto di vista dei dati, che se verranno confermati questo fine del rallentamento, questa fine della perdita di posti di lavoro, e anche sul fatto così del sentiment, appunto, che gli italiani ricomincino ad avere un pochino più di fiducia nel futuro. Ma veniamo alle pagine interne anche del Sole 24 Ore su temi economici. Padoan diceva: l'Italia naturalmente ha un problema quando il costo del petrolio è troppo alto, perché noi non produciamo pochissima energia, ne importiamo tantissima, e ieri è arrivata questa buona notizia, un primo effetto chiaro, palese, percepibile del calo del prezzo del petrolio: l'elettricità sarà meno cara del 3%. Gli aggiornamenti dell'Authority sulle bollette di luce e gas a partire già dal 1 gennaio 2015. Celestina Dominelli ci spiega, con anche l'aiuto di una tabella che mostra l'andamento dei prezzi dal 2011 appunto a oggi, delle tariffe della luce e gas, che adesso sono veramente molto basse, con anche tutte le domande e risposte a cura di Jacopo Ciliberto, che è uno dei giornalisti del Sole 24 Ore esperti di energia, di questioni energetiche. Carburanti scesi del 16% e del 32% se togliessimo le famose accise, le famose tasse che sappiamo pesano così tanto per esempio sul prezzo della benzina, ma dei carburanti in generale. Dalle pagine di Finanza vi segnalo un altro segnale, che è quello delle fusioni e acquisizioni. Il rapporto di KPMG sull'Italia mostra che nel 2013 sono aumentate di la quasi 40 miliardi tra i maggiori accordi, ricorda Carlo Festa, quello tra Enel e Enersys, quello tra Sky Italia e B-Sky2B e quello tra Unipol e Fonsai. E poi abbiamo ricordato ieri è iniziato l'approfondimento del Sole 24 Ore sulla legge di stabilità. Ieri c'è stata una prima parte dedicata alle imprese, oggi imprese e immobili, questa guida pratica alle novità della legge di stabilità, l'ex finanziaria. Oggi, per esempio, l'approfondimento è proprio sull'IVA, con quello che si chiama reverse charge, che debutta in tre settori. Quindi servizi a edifici e nell'energia, poi ci sarebbe la grande distribuzione che è in stand-by, e ieri la legge è andata in Gazzetta, quindi è tutto molto più sicuro una volta che appunto la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Questi approfondimenti li trovate a pagina 36 e 37 del Sole 24 Ore, mentre a pagina 39 una guida preparata dagli esperti del Sole 24 Ore sul Jobs Act, il famoso Jobs Act, la riforma del lavoro, approvata giusto prima di Natale. Qui sono quattro i focus di oggi: licenziamenti discriminatori, piccole imprese, partiti politici e sindacati e conciliazione facoltativa. È una guida allo schema di questo decreto legislativo, questo tecnicamente è il Jobs Act, che continuerà nei prossimi giorni. Torniamo un attimo al Corriere della Sera per una buona notizia, almeno io la trovo un'ottima notizia. È segnalata nella pagina del Corriere della Sera dedicata a Milano, ma la trovate anche su altri giornali. C'è stato un vero e proprio assalto notturno alla biglietteria della Scala, e faceva molto freddo perché a Milano in questi giorni siamo vicini allo zero, ma le persone si sono messe in coda perché la Scala ha fatto questa iniziativa di biglietti a metà prezzo per lo schiaccianoci, e appunto persone di tutte le età, come si vede anche dalla foto, si sono messe in coda per avere alcuni di questi pochi biglietti. Anna Chiara Sacchi e Andreis ci raccontano questa bella iniziativa, ma anche questa bella risposta, e ancora una volta si dimostra che se l'offerta di cultura, di eventi culturali di tutti i generi c'è, le persone rispondono, e rispondono, ripeto, di qualsiasi età. Non è soltanto perché si dimostra ancora una volta che l'opera e il balletto non piacciono soltanto a persone di una certa età, ma anche ai giovani. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali, abbiamo visto e probabilmente vedremo anche domani, anche se domani ci sarà Mauro Meazza per l'ultimo giorno dell'anno, ma sicuramente anche domani ci saranno sui giornali un po' di previsioni per il 2015. Allora, sul Corriere della Sera vi segnalo questo articolo di Paolo Ottolina: Tecno desideri, telefoni grandi e sensori su ogni cosa, ecco tutto quello che vorrete avere. Vediamo insomma se vorremo avere questi, per esempio, l'Apple Watch o degli smartphone particolarmente grandi, o i famosi Google Glasses, o magari tutti questi nuovi sensori, questa wearable technology che forse ci piacerà di più nel 2015 rispetto a quanto è stato nel 2014. Dalle pagine della Repubblica vi segnalo un'intervista a Gianni Cuperlo, che fa parte di quella minoranza PD che si oppone a molte delle scelte del segretario Renzi. Ve la segnalo perché fa capire insomma quanto in salita sia comunque la strada del Premier, perché ha al suo interno degli oppositori per niente, possiamo dire, sedati. Quello che viene definito da Repubblica un esponente della sinistra PD dice: il Jobs Act è iniquo, la consulta potrebbe fermarlo, nella pubblica amministrazione si entra per concorso, non si taglia per risparmiare. Quindi questo per dire che ieri Renzi ha detto: metteremo mano anche ai licenziamenti nella pubblica amministrazione, ed ecco puntuale la replica di Cuperlo: no, noi non siamo d'accordo. Ma vi dicevo che Francesco Merlo commenta, è una pagina intera, la pagina 17, quella che definisce la furia pop di Renzi, trasforma Al Pacino nel trascinatore che salverà l'Italia. A Renzi piace fare citazioni appunto pop che vengono dalla cultura popolare. Ieri ha citato Al Pacino nel film Ogni maledetta domenica, in cui Al Pacino interpreta un allenatore di una squadra di football americano che cerca di motivare i suoi giocatori, e così Renzi ha detto: mi sento un po' come Al Pacino che in Ogni maledetta domenica dice ai suoi: ce la potete fare. Ma vi leggo l'ultima parte dell'articolo di Merlo: vedremo nel 2015 se quella di Renzi è furia, che in Italia è sempre stata la comare della lentezza, o se davvero il decreto sul fisco è una rivoluzione, il Jobs Act è una pietra miliare, la riforma costituzionale è un passaggio storico. Renzi ha usato molti superlativi anche per il comandante del Norman Atlantic, che è stato l'ultimo a lasciare la nave in fiamme. Così siamo ridotti, invece di punire chi commette reati, delitti, misfatti e infrazioni, dobbiamo premiare chi non li commette. Daremo premi a chi mangia con le posate, a chi non sputa per terra, al comandante che non abbandona la nave, a chi è veloce perché rispetta gli impegni e usa bene il poco tempo che ha, invece della furia, pop, di guidare a fari spenti nella notte per vedere se poi è così difficile morire. Insomma, veramente, ripeto, non sarà facile il 2015 di Renzi, anche perché anche ieri ha continuato a fare, diciamo, molte promesse, a alimentare molte aspettative e speranze. Poi naturalmente bisogna cercare di essere all'altezza di tutte queste promesse e di tutte queste aspettative che si è alimentati. Io me lo auguro con tutto il cuore, ma insomma vedremo, appunto, perché gli ostacoli non sono pochi. A proposito di presidenti, in questo caso che hanno alimentato speranze, su Repubblica viene tradotta e ripubblicata un'intervista che Barack Obama ha rilasciato alla National Public Radio, e questo anche per dire quanta importanza ha la radio. Io ci tengo sempre a sottolinearlo, appunto, Barack Obama, questa intervista che contiene dichiarazioni molto importanti, l'ha rilasciata alla radio. Gli chiede l'intervistatrice: signor Presidente, da un punto di vista razziale gli Stati Uniti oggi sono più divisi di quando lei assunse l'incarico 6 anni fa? E Barack Obama risponde: no, in realtà credo che nelle interazioni quotidiane siamo forse meno divisi, e penso che il problema sia emerso in un modo probabilmente sano. Voglio dire, il problema della diffidenza reciproca tra polizia e comunità di colore non è certo nuovo. Il fatto è che non se n'è parlato per una varietà di motivi. Vi assicuro però che gli afroamericani o gli ispanici che risiedono in comunità disagiate e convivono con questa realtà da sempre non direbbero che la situazione oggi è peggiore rispetto a 10, 15 o 20 anni fa. E poi una domanda su Cuba e su Teheran, perché si sta ventilando la possibilità di riaprire l'ambasciata americana a Teheran. Steve Inskeep, che appunto è il giornalista che ha fatto questa intervista alla National Public Radio a Barack Obama, chiede: cosa pensa della posizione che l'America occupa nel mondo e in che modo, potendo, le piacerebbe modificarla nei 2 anni che restano? Dopo Cuba esiste forse la possibilità di aprire un'ambasciata USA a Teheran? Mai dire mai, ma ritengo che occorra procedere gradualmente. Nel caso di Cuba, per 50 anni ci siamo comportati sempre nello stesso modo, senza ottenere alcun cambiamento. L'Iran è un paese grande, progredito, con una comprovata tradizione di terrorismo sponsorizzato dallo Stato. Sappiamo che voleva sviluppare un'arma nucleare che ha danneggiato i nostri alleati. È un paese la cui retorica, oltre a essere esplicitamente anti-americana, è stata anche incendiaria nei confronti dello Stato di Israele. Detto ciò, ammesso che Teheran dichiari di non essere interessata alla realizzazione di un'arma nucleare e che riconosca che è nel proprio interesse dimostrarlo affinché con il tempo le sanzioni possano essere sollevate, se riusciremo a compiere quel primo importante passo, allora mi auguro che esso possa fungere da base per un progressivo miglioramento dei nostri rapporti. Quindi anche qui molto ottimismo, e anche in questo caso facciamo il tifo per Barack. Una notizia leggera che ho trovato sulla stampa riguarda l'insalata Iceberg, che è coltivata in Spagna e sta conquistando il mercato italiano. E Stefano Rizzato ci racconta: l'insalata piglia tutto venuta dal caldo. Costa 1,50 euro, prezzo minimo al dettaglio di un'insalata, e il prezzo però il prezzo base del produttore è 40 centesimi, quindi come in ogni settore grandi ricarichi. E c'è appunto una foto di un cespo di Iceberg, e trovo sempre molto interessanti queste analisi economiche di fenomeni apparentemente banali. Non ci chiediamo forse neanche da dove viene l'insalata che troviamo da qualche mese a questa parte più diffusa che mai nei supermercati o negli ortofrutta, e poi si scopre che appunto è quasi tutta spagnola. Una buona notizia ancora dalla stampa sulle start-up. Sapete, le start-up sono le aziende, un termine naturalmente mutuato dall'americano che è molto conciso e che rende l'idea, appunto, piccole aziende che cercano di accendersi, di iniziare con piccoli capitali ma spesso grandi idee. Piccola ma innovativa cresce la nuova Italia. High tech e vocazione globale. Così in un anno sono nate 400 imprese in più, premiate in un registro speciale. Ci sono alcuni casi, come questa Musement, che fa pacchetti di viaggio personalizzati, quest'altra che si chiama Dove Conviene, in cui si confrontano i prezzi e le offerte, la Sardex e con noi beni e servizi gli acquisti senza euro. È una, un'azienda, c'è anche la foto del fondatore, è una, con quelle, che utilizza quelle monete complementari come per esempio i Bitcoin. E poi Brandon Ferrari, che è una società che fa consulenza per i marchi che vogliono, marchi della moda che vogliono avvicinarsi all'e-commerce. Sul supplemento culturale del Messaggero vi segnalo un lungo articolo di Filippo Laporta molto divertente, che si intitola "Se dire bugie fa crescere". Uno studio canadese sdogana infatti la menzogna: la minaccia di punizioni per i bambini è inutile e anzi ottiene l'effetto contrario. Politologo Ian Leslie sostiene che mentire non sia altro che un aspetto della natura umana. Per il cervello rappresentare la realtà in maniera fedele conta meno della sopravvivenza. Non tutti però sono d'accordo. Il tema quindi è: esistono davvero questi inganni formativi? E Filippo Laporta appunto ci ricorda, anche facendo un excursus diciamo storico letterario, come ci siano anche illustri precedenti di questa teoria. Sigmund Freud, per esempio il padre della psicanalisi, aveva sicuramente, è stato uno dei primi ad analizzare la nostra tendenza a quella che potremmo definire la frottola utile. Dalle pagine interne di Libero vi segnalo un'intervista a Dario Argento, del quale da poco è uscita un'autobiografia, e si intitola "Vi racconto le mie paure", con l'occasione anche non solo quella della biografia, ma anche il fatto che sul canale digitale Iris ci sarà un ciclo dedicato a Dario Argento, che spiega che lui il Capodanno lo passerà con amici di vecchia data, solidi e fidati, e che non sapeva di questa iniziativa di Iris, ma perché ne è soddisfatto, perché i miei film sono come figli. L'intervistatore Leonardo Iannacci gli chiede: "Non si vive di rimpianti, ma lei ne ha mai avuto uno?". "Sì, non ne ho mai parlato, ma ora è venuto il momento. Negli anni Ottanta avevo scritto la sceneggiatura di un film. Quello script è andato perduto, sparito per ragioni assolutamente misteriose. È andato perduto tutto: trama, descrizione dei personaggi, location, dialoghi. Possibilità di recuperare quella sceneggiatura? Zero. Non ve ne sono e mi spiace immensamente. È il mistero della mia vita". Questo piccolo segreto che ci rivela Dario Argento. Dalle pagine del Giornale, a proposito di numeri, torniamo ai numeri, all'economia. Fabrizio Boschi ha fatto un'analisi delle multe comminate in Italia e ha scoperto che l'Italia è al primo posto in Europa per contravvenzioni agli automobilisti. Milano, Napoli e Aosta sono le città dove ci sono state più multe, e l'aumento, pensate, dal 2009 è stato del 987%, quindi quasi 10 volte in più. Dopo l'Italia in Europa viene la Romania, dove l'aumento è stato del 124%, poi Grecia, Bulgaria, Estonia e Slovacchia, mentre gli stati più virtuosi, forse non dovremmo stupirci più di tanto, sono Svezia, Germania, Inghilterra, Belgio, Spagna e Francia. In Svezia, pensate, dal 2009 le multe sono aumentate solo del 9%. Un'ultimissima segnalazione, poi ci ha già raggiunto Irene che ci darà qualche ulteriore anticipazione su quello di cui parlerà tra poco. Sul Fatto Quotidiano ha deciso di affrontare le previsioni del 2015 chiedendosi: "Dimmi che social sei e ti dirò che 2015 avrai". Social naturalmente sta per social network: siete fan di Facebook o vi piace Twitter o magari preferite Instagram o YouTube o ancora WhatsApp o LinkedIn o Snapchat o questa nuova Tinder & Co, che è un sito di incontri online. Ecco, secondo il Fatto poi vi spiega che 2015 avrete a seconda del social network che preferite. Ma lascio la parola a Irene. Chissà come verremo profilate. Giulia, grazie per questa interessantissima rassegna stampa. Continua 24 mattino subito dopo il GR per parlare di lavoro con altri paesi. Grazie a Giulia Crivelli, cioè il dialogo tra culture differenti. Noi ci siamo chiesti: qual è il modo migliore per fare affari con i cinesi, visto che l'export trascina la bilancia commerciale italiana? È abbastanza arrivato il tempo per noi di andare oltre le traduzioni. Tradurre, conoscere una lingua non basta più, dobbiamo conoscere le mentalità, la cultura, ciò che offende, ciò che è gradito. Vi è capitato nelle vostre fiere, nei vostri incontri d'affari, nei vostri scambi internazionali di avere a che fare con situazioni o imbarazzanti o incomprensibili? Ditecelo al 349-238-6666 SMS o 800-24-0024. Sarà l'oggetto della nostra trasmissione dopo l'aggiornamento con le news. 24 mattino. 8:18, ancora un saluto da Irene Zerbini. Vi ricordo in apertura che oggi parleremo di confronti, proprio così. La globalizzazione richiede flessibilità mentale per relazionarsi con le culture, con i modi di fare diversi e distanti. Allora, una volta si pensava che bastasse conoscere la lingua, ma ormai la traduzione risulta insufficiente. E se è vero che sempre di più dipendiamo dall'export, perché sembra l'unico settore della bilancia commerciale italiana che tiene, anche se ci sono, e naturalmente qualcuno me l'ha fatto notare, delle eccezioni, ed è vero, per esempio è rallentata la crescita dell'export dei vini per i primi 8 mesi del 2014. Se dobbiamo guardare a settori come la Russia, dobbiamo dire che l'Italia ha perso qualcosa come 1,2 miliardi, anche per effetto del crollo del rublo, che ha reso per i russi meno convenienti gli acquisti, oltre che all'effetto, che non possiamo non citare naturalmente, dell'embargo, delle tensioni politiche che hanno in qualche modo frenato gli scambi. Ma a parte questi settori specifici, è l'export quello che possiamo dire ha registrato un segno più, soprattutto le esportazioni fuori dal vecchio continente. Se pensiamo che si è registrato un avanzo commerciale intorno ai 2 miliardi di euro, quindi in crescita rispetto ai 700 milioni del settembre 2013, e questi sono dati già vecchi di 2 mesi, naturalmente dobbiamo comprendere l'importanza per le industrie grandi e piccole italiane di guardare fuori. Allora, quando si lavora con gli altri paesi, a volte succedono cose bizzarre, a volte succedono cose ed errori che si intraprendono che sarebbe meglio evitare. Per esempio, voi sapete qual è il modo migliore per affrontare un russo, un tedesco che si siede di fronte a voi perché è interessato a uno dei vostri prodotti, o che comunque deve svolgere una transazione, una negoziazione? Immagino sia anche una di quelle fotografie scattate nella vostra memoria quando avete in passato visitato delle fiere o semplicemente fatto viaggi anche di piacere che poi hanno aperto la via, il viatico a un affare successivo. Molti italiani hanno deciso di lasciare l'Italia, conosciamo il volume ormai del fenomeno, piuttosto preoccupante, decisamente preoccupante dal punto di vista delle risorse economiche, se dobbiamo quantificare la perdita del brain drain, come viene chiamato in inglese, cioè della fuga di cervelli. Cercano lavoro all'estero. Ieri ci diceva un'agenzia di reclutamento internazionale che addirittura il 40% dei manager italiani oggi si dice disposto a trasferirsi all'estero, cioè anche persone che non hanno più 20 anni, è il nuovo migrante italiano. Ma anche chi ha scelto di rimanere in Italia deve spesso consolidare i rapporti commerciali o professionali con altri paesi, e noi vogliamo sapere proprio questo. Vi è successo? Vi siete trovati in situazioni indecifrabili, magari proprio perché non capivate cosa intendesse in realtà il vostro interlocutore? Questo tipo di incroci, o cross culture come viene definito, è ormai il futuro della comunicazione, e non solo commerciale. Viene analizzato da vere e proprie aziende che si occupano di questo e che insegnano a fare business, ad avere relazioni commerciali e culturali con i paesi molto diversi dai nostri. E noi riteniamo che rappresentanti di questa cross culture, di questo incrocio di cultura, siano soprattutto in Italia coloro che vivono in Italia da anni, per raccontarla alle loro nazioni. Sto parlando dei corrispondenti stranieri, e ringrazio per la sua disponibilità e saluto Tetsuro Akanega Kubo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Tetsuro, sì. Da quanti anni vivi in Italia? Ormai sono stampo estero da 77, quindi più di 30 anni per me. Più di 30 anni ancora, a volte ti stupisci della differenza tra la cultura di cui sei portatore, la tua cultura originaria, o ormai sei italianizzato del tutto? Sì, no, c'è certamente sono abituato, ma tante cose non ci riesco a abituare, perché siamo, guarda, i giapponesi e italiani tante parti in comune, ma tante cose sono contrari completamente. Per esempio, visto che... Allora, adesso dicevi che Italia ha il problema di questa fuga del cervello, che tutti possono andare all'estero. Sì. Il Giappone è il problema al contrario. Ormai non vogliono più andare a lavorare all'estero. I giovani, gli studenti, io giovani che viaggiano all'estero, sono diminuiti. E vanno a studiare all'estero, sono diminuiti. Perché forse si trova troppo bene in Giappone. Quindi non ha, come si dice, quella vitalità degli italiani che può, come si dice, affrontare difficoltà all'estero da solo. Mentre i giapponesi vogliono stare comodo a casa. E quindi c'è una chiusura e una mancanza di mentale. Scambi culturale? No, più che scambi, sì, più che scambi culturale, non so, non so se ha perso il coraggio, non so. I giovani giapponesi non hanno questo, come si dice, forza, perché l'Italia deve, da piccolo in genere forse, deve affrontare, vivere da solo. Invece i giapponesi vivono in collettività, quindi andare a uscire da questo comodo comunità scoraggia. Penso che sia questo. È molto interessante quello che dice. Sì. Abbiamo dimenticato di dire per quali testate tu lavori. Per il giornale politico Sakai Shimpo, sì. E poi scrivi sul giornale economico Nikkei. Sì, quello è soprattutto per gastronomia. Perché l'Italia è un paese che il giapponese, come si dice, ammira il cibo italiano, quindi. E hai parlato di questa collettività dei giapponesi, sì. È una dimensione che è vissuta anche a livello aziendale e sì. Proprio, sono proprio coloro che si occupano dello studio delle relazioni con nazioni molto diverse a concentrarsi sul Giappone e dicono, per esempio in questo sì. Sito interessantissimo, si chiama Cross Culture, si occupa sì. Esclusivamente di questo, che nelle loro società i giapponesi sanno esattamente che posizione occupa ognuno, cioè se è superiore, pari, sì. Inferiore di grado, sì. Quindi vengono un po' messi in crisi se non sanno che posizione sì. Occupa l'americano scamiciato sì. O l'italiano che entra con fare disinvolto nella stanza, sì. È vero? Sì, sì, è vero, sì. Allora, per il giapponese è molto importante il biglietto da visita, perché è scritto il suo incarico in azienda o in ufficio, e quindi quando... Io prendo il biglietto di vita dell'altro, leggendo questo capisco che il posto si occupa, quindi posso usare anche le parole diverse da quell'altro, no? È molto importante il ranking, la gerarchia, la posizione sì. Che sì. Si occupa nell'azienda, anche perché sì. I giapponesi, correggimi se sbaglio, sì. Rappresentano la loro azienda, non se stessi, quando si siedono a una riunione d'affari. Sì, sì, cioè, certamente sì, perché i giapponesi in questo senso non sono individualisti, questo anche forse dovuto alla religione nostra che non abbiamo un Dio assoluto o unico, ma sono tanti, quindi siamo poi dai tempi antichi abituato a, come si dice, di appartenere a una comunità, non appartenenza a una religione o un'idea. È vero che il senior, cioè la persona più importante del gruppo che si può presentare a questa negoziazione, non è necessariamente, decide la tattica, ma non è necessariamente la persona che parlerà di più. Sì, sì, certo, sì. E quindi assiste in silenzio e poi dà istruzioni in corridoio, cioè come funziona? Sì, sì, ma guardi, tante cose, in Giappone è molto importante il consenso del gruppo, quindi prima di non so, dare una mia idea all'azienda, se vivo dentro l'azienda, prima di tutto i miei colleghi, poi un po' sopra, dobbiamo parlare prima e convincere, poi alla fine, come si dice, lancia la propria idea. E si dice che, sempre su questo sito, Qua, se il giapponese non riterrà rispettabile l'interlocutore, non ci sarà l'affare. Non importa quanto sconto o che tipo di transazione monetaria possa essere coinvolta, la rispettabilità dell'altro è più importante. Sì, questo è vero, ma io penso questo anche ai cinesi, quindi forse orientali un come si dice, l'educazione confuciana era questo, no? Cioè, l'importante è di rispettare l'altro, quindi ma certamente se andiamo al negozio a comprare qualcosa scegliamo quel che costa di meno, ma anche scegliamo un negozio che abbia un, come si dice, servizio diverso dagli altri o superiore agli altri, anche se costasse di più, questo sì. E poi il giapponese non dice mai di no, cioè se vuole no, ma a parte questo, no, in lingua giapponese non c'è sì e no. Non esiste questa parola in giapponese. E quindi se bisogna rifiutare una proposta? Sì. Ci si sottrae semplicemente? Sì, da più che fa capire, cioè, dato che il Giappone è stato sempre un paese chiuso, tra i giapponesi si capisce modo di parlare, di dire sì vuol dire no, modo di dire no vuol dire sì, cioè, un po' complicato, ma in ogni caso tra i giapponesi si capiscono, no? Se questo è negativo o positivo. Attenzione, attenzione agli esportatori, perché è molto importante. Se quando cercate un giapponese al telefono vi diranno che è a un funerale o è in vacanza o è malato, è il suo modo per dire no alla vostra proposta. Sì, no, no, poi dice che io studierò positivamente, vuol dire no, no? Dice vostro... Mi fa una proposta o io faccio una proposta a un'azienda, allora questo risponde alla fine, dice va bene, e vedrò, studierò anche con idea positivamente, vuol dire dice no. Beh, questo ormai è un linguaggio abbastanza diffuso. Noi oggi ci occuperemo di questo dialogo tra culture differenti. Rimani con noi perché naturalmente ci interessa conoscere la tua opinione e quanto hai appreso anche dalla tua lunga permanenza in Italia. Ti sei occupato naturalmente di politica, anche se oggi ci soffermeremo più sui colloqui di lavoro, come si svolgono con un russo, con un tedesco, quali sono le qualità professionali più apprezzate per esempio da un arabo, come si fa a fare con un cinese, e proprio perché questa continua mobilità e globalizzazione richiede ormai lo sviluppo di competenze che vanno al di là di quella linguistica. Vogliamo sentire anche le vostre esperienze oltre ai nostri ospiti che da qui a poco vi presenteremo. Come? Scrivendoci un sms al 349 238 6666. Già qualcuno ci segnala, Ugo da Torino, la sua volontà di andarsene nonostante abbia 55 anni, e le vostre esperienze anche all'estero all'800 24 00 24 per le vostre telefonate. 24 mattino. 34 minuti dopo le 8 e ancora parliamo di differenze culturali. Ci sono articoli su Business Insider che ci hanno acceso, diciamo così, verso questo tema, e infatti soprattutto veniva presa in esame la percezione del tempo diverso tra le diverse culture. Il tempo declinato anche come tempo della negoziazione. Ci sono delle culture che sono letteralmente allergiche al fatto che un interlocutore metta loro fretta o chieda una decisione veloce. Questo non si fa, cioè fa letteralmente scappare in qualche modo la persona che fino a poco, a pochi istanti prima sembrava fosse in procinto di chiudere un affare con voi. Quindi molta attenzione alle differenze culturali. Noi tra pochissimo sentiremo anche voi all'800 24 0024. Vogliamo proporvi però l'intervista a Richard Lewis che abbiamo realizzato ieri proprio per poterla tradurre. Richard Lewis è un linguista che ha creato un vero e proprio business dall'incontro e dall'incrocio tra culture. Prima si occupava semplicemente di insegnare l'inglese, portare l'inglese nel mondo come lingua franca. Ormai questo periodo è stato decisamente, anche questa esigenza, superata dalla necessità invece di conoscersi l'un l'altro in questo mondo globalizzato. E il suo libro When Cultures Collide, cioè quando le culture proprio non riescono a parlarsi, è stato tradotto un po' in tutto il mondo, ma con delle sorprese. Sentiamo cosa ci dice della scarsa propensione degli italiani a confrontarsi con gli altri e a conoscere le differenze. Alcune grandi aziende si adoperano per comprendere le diverse culture, altre no. Ad esempio Coca-Cola, Shell, hanno delle solide basi culturali e sono molto brave a vendere i loro prodotti in tutto il mondo perché conoscono le aspettative delle altre culture. Altre aziende, non avendo mai pensato a questi aspetti, sono andate incontro a dei fallimenti clamorosi, come nel caso della fusione Daimler-Chrysler, che è stata pessima perché le due culture non si sono integrate affatto. Gli americani non capivano i tedeschi e i tedeschi non capivano gli americani e hanno perso miliardi di dollari proprio a causa di questa mancata comprensione reciproca. Ci sono alcuni paesi che non studiano molto le altre culture e sorprendentemente sono la Francia, l'Italia e la Spagna. Non si interessano alle altre culture perché pensano di essere i detentori della cultura, specialmente i francesi che si chiedono perché dovremmo studiare quando la cultura è qui, da noi, in Francia. Francesi, italiani e spagnoli fanno lo stesso errore. Invece paesi come l'Olanda, la Scandinavia, la Svizzera, la Germania tengono in considerazione questa materia e la conoscono molto meglio. Ho fatto anche qualche seminario in Italia, ma non molti. Lavoro naturalmente con la Fiat e l'Iveco, ma la maggior parte delle aziende italiane non è interessata a queste tematiche. Ad esempio, il mio libro When Cultures Collide è stato tradotto in 15 lingue, ma non in italiano, in francese o spagnolo. Questo è sintomatico, che sia stato tradotto in giapponese, russo, cinese, persino lituano, svedese, finlandese, ma non appunto in francese, spagnolo e italiano. E quindi questa è un'indicazione di quanto siamo schizofrenici, cioè sembriamo molto esterofili, ci piace molto viaggiare, siamo molto propensi anche a trascorrere dei periodi all'estero, poi in realtà per molti aspetti siamo chiusi. Questo è il ritratto degli italiani che emerge da chi ha a che fare con tante diverse culture. Lui era Richard Donna Lewis, linguista e consulente in comunicazione cross-cultural. Sarà una delle tematiche del 2015 e non solo. Intanto io comincio a leggere i messaggi che ci mandate sulle vostre esperienze in attesa delle vostre telefonate. Faccio affari viaggiando in tutta la Russia e il Kazakistan. Ho imparato le lingue, però quello che conta per concludere positivamente è guardare sempre l'interlocutore negli occhi, questo è decisamente importante. Poi viene sottolineata ancora una volta la propensione dei giapponesi a giudicare gli altri per la gerarchia che occupano nelle aziende. Queste sono esperienze di prima mano vostre. Io voglio salutare Alessandro Di Fiore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Alessandro Di Fiore è fondatore e amministratore delegato dello European Center for Strategic Innovation e presidente di Harvard Business Review Italia. Dunque, diciamo, per sintetizzare, che insegna, almeno così l'hanno descritto anche in un articolo sulla stampa, insegna al mondo, ma soprattutto alle aziende italiane naturalmente, come interlocutori privilegiati, come si innova. Ebbene, lei che si occupa di innovazione, Alessandro, si può prescindere dalla cultura che si vuole raggiungere anche col proprio prodotto, con la propria expertise? E condivide quello che ci ha detto l'esperto linguista Lewis, bisogna conoscersi gli uni con gli altri? Sicuramente condivido quello che è stato detto nell'intervista precedente. Dal punto di vista individuale del manager o della persona, adattarsi alla cultura di un altro paese oppure di un'altra azienda, anche le aziende hanno culture diverse, significa fondamentalmente avere una capacità di ascolto, di osservazione, di riflessione, poi di lavorare su se stesso e lavorare in modo disciplinato su se stesso. La mia prima esperienza all'estero a 24 anni negli Stati Uniti è stata quella che mi ha inizialmente permesso di crescere velocemente, in quanto mi si chiedeva una performance elevatissima in un contesto culturale profondamente diverso da un ragazzo che aveva studiato, aveva appena completato l'università in Italia. Quindi quella disciplina, quella forza di volontà di doversi adattare a un contesto diverso. Diamo un esempio pratico. Alessandro Di Fiore, la invito a fare questo sforzo per noi, adattiamoci al modo radiofonico, cioè lei dismetta per un attimo i suoi panni da manager e ci racconti lo smarrimento del ragazzo che arriva negli Stati Uniti, cioè cos'è un episodio che l'ha colpita, che l'ha segnata poi anche nel suo modo di intraprendere la sua attività professionale, poi cos'è che l'ha sorprese allora? Ma una cosa che ricordo benissimo era l'abitudine negli Stati Uniti di cominciare prestissimo il lavoro con delle riunioni, quindi anche alle 7 di mattina era una cosa normale e regolare, con delle riunioni anche molto importanti. Io a quel tempo ero un consulente junior di una grande società e per me quella è una cosa che ovviamente è molto diversa dal nostro modo di lavorare in Italia, dove il working breakfast oppure la riunione alle 7 di mattina è molto difficile da concepire. E quello mi ha forzato, ovviamente io dovevo dimostrare, no? Dovevo dimostrare e raccogliere la fiducia, quindi ero il primo ad essere lì anche alle 6.45, ad essere fondamentalmente un modello anche per chi voleva imporre quel modello, quei comportamenti in modo diverso. E adattarsi alla cultura significa anche questo, lavorare su se stesso, su dei modelli di comportamento che non vengono naturali, ma poi capirli e farli propri e utilizzarli a seconda del contesto. Tra i clienti di Fiore, ricordo, ci sono 25 sono compresi tra le 500 aziende della lista Fortune, e non le chiedo di fare i nomi perché so che lei è riservato come un giapponese, però io cito un esempio significativo quando si parla di sensibilità culturale, perché lei ha aiutato Arena in un ambito molto particolare. Qual è in 30 secondi? Sì, Arena è un'azienda italiana, leader nei costumi, alla ricerca di nuove opportunità di crescita. Costumi da bagno, specifichiamolo, perché leader nei costumi magari uno può pensare usanze, capisce? Costumi da bagno, sì. Ovviamente costumi da nuoto, no? Anche sì. Costumi professionali per il nuoto. Alla ricerca di opportunità di crescita abbiamo identificato come ipotesi il segmento delle donne musulmane. Le donne musulmane, come tutti, vogliono andare al mare, ovviamente fare il bagno, e hanno dei vincoli di tipo religioso, quindi devono coprirsi le gambe, devono coprirsi la testa, e di solito lo fanno con delle vesti di cotone che sono pesantissime in acqua, non possono nuotare e si asciugano dopo ore e ore. Dopo giorni a volte, quelle vesti. A volte dopo giorni, quindi è un'esperienza assolutamente poco piacevole e frustrante. Questo è stato notato tramite un processo di osservazioni, quindi osservare il mondo che è diverso dal tuo, osservarne le logiche e le barriere, in questo caso di tipo culturale e religioso, che non permettono a quella persona o a quel mercato, in questo caso, di comprare i tuoi prodotti, da lì poi scocca l'insight oppure la scintilla o l'idea, e hanno sviluppato per primo il burkini, che è fondamentalmente un costume con un con il capo coperto, tecnico, diciamo. Con il capo coperto anche. Quindi lei è indirizzati assolutamente. Invece di pensare, ok, il mercato musulmano per noi è chiuso, rivolgiamoci agli svedesi, adesso sto banalizzando, naturalmente lei ha fatto applicare il suo metodo, che è quello dell'osservazione, e ha trovato una via d'uscita che poi ha permesso anche la vendita di un prodotto, e non c'è nulla di male. Questa però esatto, è un'attenzione esatto. Culturale. Alessandro Di Fiore, grazie, rimanga con noi, ma devo dar la voce a Salvo che ci chiama da Napoli. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Ci racconti la sua esperienza. La mia esperienza è un'esperienza che ho vissuto in Cina parecchi anni fa, e allora ero amministratore delegato di una importante società italiana, e andai a contattare una ditta cinese per l'importazione qui in Italia di determinati prodotti. Il discorso con i cinesi cominciò con una presentazione che mi fece l'allora loro amministratore delegato, e quindi dopo un giorno di trattative noi pensammo di chiudere l'affare, però che lui disse che il giorno dopo avrebbe parlato col suo presidente per definire e quindi firmare. Sì. Il giorno dopo si presentò il presidente e disse: guarda, tu hai fatto la trattativa con questi signori, però adesso, siccome io sono di un grado superiore, devi far fare una bella figura, perché quindi devi diminuire ancora i prezzi. Insomma, questo è durato per quattro giorni, ogni giorno si presentava qualcun altro. Alla fine ci arrabbiamo un pochettino, onestamente, e invece di abbassare i prezzi cominciamo ad alzare i prezzi. Allora capirono che a un certo punto noi eravamo interessati all'affare, ma loro forse erano più interessati di noi, e quindi ristabilimmo quello che avevamo deciso il primo giorno. Quindi questa falsa ritualità è gestita soprattutto dai cinesi in maniera da poter sfruttare quanto più possibile nell'ambito commerciale. Grazie per la sua testimonianza molto significativa, perché poi ritorneremo su questo tema del presentarsi ogni giorno un manager diverso di un rango superiore, un'usanza molto diffusa nel mondo delle imprese asiatiche. Noi ora andiamo a controllare il traffico e ci ritroviamo dopo per le conclusioni. 24 mattino. La prima persona che vi si presenterà nel corso di una trattativa in generale con un'impresa asiatica non sarà quella con cui concluderete l'affare. Questa è una delle strategie raccontate. Ci chiedete voi con l'SMS di ripetere il sito businessinsider.com. E questo è un sito in cui ci si incontra tra culture e semplicemente si danno dei suggerimenti per concludere in maniera soddisfacente per entrambi affari con persone che appartengono a un'altra nazione, che sono state cresciute in un altro modo e che a volte interpretano segnali e simboli in maniera diversa. Voglio ringraziare e salutare il professor Piero Barbanti. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Lei non fa affari, ma è un neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. E secondo lei esiste proprio questa differenza nel porsi e nell'intendere quando si dialoga tra culture differenti? È una cosa che osservate anche voi scienziati? La osserviamo sicuramente e cerchiamo di dare anche una spiegazione. Il cervello si plasma intorno all'ambiente. Sentivo prima l'interessante intervista in cui veniva un po' stigmatizzato il ruolo dei mediterranei nell'integrarsi con altre culture, francesi, spagnolo, italiano, ma è molto semplice. Come possiamo confrontare gli stimoli culturali, se vogliamo anche la stessa densità abitativa di queste aree del Mediterraneo con quelle della Scandinavia, in cui invece la ricerca, la necessità di incontrare altro, di comunicare, ti rende più aperto. Vorrei però dire questo, che l'ambiente, inteso anche come clima, badate bene, come esposizione di luce, come rigori termici, influenza il nostro cromosoma. La scienza è detta epigenetica, e cioè non basta possedere un certo patrimonio genetico, questo viene modulato dall'ambiente in cui noi viviamo, e questo spiega verosimilmente le differenze, per esempio, nella percezione del tempo. Tutti noi abbiamo, sentivo prima il manager che ricordava queste riunioni alle 7 del mattino, io personalmente ho avuto dei meeting scientifici alle 6:30, ma il tempo in tutti noi è scandito da un'area ipotalamica ben precisa, ma c'è l'area emozionale che può essere in alcuni severisti, ma è questo veramente su base culturale, che dice la sua e forza contro i ritmi biologici. Diciamolo francamente, la longevità è questione del bacino del Mediterraneo, dove forse ascoltiamo maggiormente il nostro fisiologico senso del tempo e lo fondiamo di meno. Ma lei ha parlato di aree fredde che influenzerebbero, ed è un così quasi un senso comune considerare freddi gli scandinavi piuttosto che i tedeschi. Ebbene, a loro volta si scopre anche da questo sito, loro ci considerano intrusivi, nel senso che facciamo troppe domande, chiediamo troppo, parliamo troppo, e questa è considerata da loro una violazione della privacy. Quindi non siamo solo noi a percepire loro come freddi, ma anche loro a percepirci un po' come maleducati. Ma insomma, queste sono poi delle notazioni che ci rendono, così come la gestualità degli italiani, noti nel mondo. Personalmente lo considero un complimento. L'intelligenza è raramente contenibile in uno schema rigido, questo non vuol dire che sia compassato, ovviamente non sia intelligente, però insomma il brulicare di attività nervosa, questi 10.000 amici su Facebook di ogni neurone, tante sono le sinapsi che ogni singolo neurone può fare, funzionano tanto meglio quanto più sono stimolate. Certo, noi direi proprio per questo brulicare di invasioni nella nostra, parlo di italiani ovviamente, di invasioni nella nostra penisola, di culture che si sono mescolate, tendiamo a trasformare questa molteplicità di connessioni talvolta in un rumore di fondo. Però ecco, diceva prima il collega che mi ha preceduto, parlava dei suoi 24 anni, l'integrazione, qua parlo in termini neurobiologici, è tempo ed età dipendente. Fino ai 15-16 anni è possibile che la persona dimentichi completamente la propria cultura di origine, e poi tra i 20 e i 30 anni c'è la massima possibilità di integrarsi, non perdendo la propria cultura di origine, perché è l'età dell'intelligenza fluida. Successivamente noi capiremo, comprenderemo con uno sforzo imitativo la cultura altrui senza, e parlo di noi mediterranei, poter perfettamente integrarci. Voglio però dire una cosa. Saremo sempre degli esiliati, anche se andiamo all'estero avremo sempre questa cultura di fondo che prevarrà nei nostri giudizi, nel nostro modo di concepire la vita, e dal punto di vista neurale è così, l'età ha un senso anche per l'integrazione. Rimanga con noi, dottore, perché lei ha citato il tempo, argomento decisamente interessante, e vogliamo farle sentire cosa dice Richard Lewis della concezione del tempo da parte degli asiatici. Both in Japan and China, time is, punctuality is important. Sia in Giappone sia in Cina la puntualità è di un'importanza fondamentale. Direi che in Cina ancora di più. Quando i cinesi hanno un appuntamento di lavoro, solitamente arrivano con un certo anticipo. Se l'appuntamento è alle 2, arriveranno alle 2 meno un quarto e magari cercheranno di concludere l'affare in tempi brevi, in modo da aver già finito per le 2. I giapponesi sono più simili agli americani, sono puntuali, arrivano all'orario stabilito, magari un minuto prima. Ma la cosa interessante della concezione del tempo dei giapponesi è che loro lo considerano come una sequenza di eventi. Come noi pensiamo al Natale o Capodanno come un momento per fare determinate cose, così loro hanno in mente molti eventi e momenti adatti a fare le cose giuste e non altre. Così c'è una stagione giusta per iniziare la scuola, per andare in vacanza o per festeggiare la Pasqua. Noi non pensiamo alla maggior parte di queste cose. Certo, anche noi pensiamo al Natale, al Capodanno o alla Pasqua come eventi precisi, ma i giapponesi hanno 20 o 30 momenti temporali che sono molto importanti e che permettono loro di fare ciò che è giusto nel giusto ordine. Sono molto attenti alla sequenza temporale. E poi non bisogna mai parlare d'affari nei primi 15 minuti di una trattativa, mi ha detto Lewis ieri nell'intervista, e mostreranno i giapponesi grande rispetto al vostro senior, si aspettano che facciate lo stesso con il loro membro senior, e non mettete le braccia sulle spalle, cioè noi italiani sembra che uscendo dal meeting abbiamo la tendenza a abbracciare, non si fa con i paesi asiatici. C'è chi ci scrive che abbiamo ristrettezza mentale al 349-238-6666, e ancora chi ci scrive che russi e cinesi, soprattutto i cinesi, hanno per default il proposito di truffare il fornitore e non onorare gli impegni. Ecco, forse questa persona, questo imprenditore, appartiene a una fascia d'età che non permette l'integrazione, per quello la vede così, così ci ha spiegato il nostro neurologo Piero Barbanti. In Russia come va? Pronto, buongiorno, Omar Castellani in collegamento. Buongiorno. Con noi. Dove si trova lei? A San Pietroburgo. Ver l'Ermitage, lei è il cuoco, anzi il ristoratore italiano che lavora all'Ermitage, fantastico. Senta Omar, grazie per essere in contatto con noi. Come sono i russi da questo punto di vista? Ma io mi sono sempre trovato bene. Le differenze, ci dica, al di là della gradevolezza, le differenze, no, che ha notato. San Pietroburgo è una città molto europea, molto meno russa di quello che si possa pensare, ha sempre avuto contatti a livelli europei questa città, infatti le infrastrutture e molti palazzi sono stati costruiti da architetti francesi e italiani. Ma i clienti come sono a tavola? Hanno le stesse aspettative, lo stesso modo di porsi, contestano il prezzo, danno mance laute? No, il cliente è abbastanza preparato. Facevamo un discorso con i miei colleghi poco tempo fa. Diciamo, noi in gergo culinario diciamo che loro sono affamati, non sono come noi che ormai abbiamo mangiato tutto. Sono curiosi di provare la nostra cultura anche a tavola. Fantastico, grazie a Omar Castellani, che dunque è più che integrato. Grazie a Piero Barbanti, primario neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, Alessandro Di Fiore, che è stato con noi, e a Tetsuro Akanega Kubo, giornalista giapponese. Da Irene Zerbini un ringraziamento particolare ad Anita Panizza, Alessandro Longoni, gli autori di questo programma, il mio regista Peter Bescapè. Ci ritroviamo domani mattina come al solito alle 7:15. Buona giornata.